nascondere il tuo viso. Siamo soli, io e te. Se il tuo corpo è in paradiso, tu lo devi solo a me. Sul mio corpo poche mani, tu che hai avuto mille amori, solo tu sei il mio domani. Pensando, perché non mi baci più? Io credevo fosse amore. Cosa fai? Stai vivendo?